Da quando sono al mondo ho visto scemare vieppiù le fortune del pollo. Arrosto con le patatine o bollito con la salsina verde e con le verdure, è stato in tavola solo la domenica di famiglie agiate e festose. Dal brodo se ne ricavava beneficio, se ne ricavava beneficio l'ammalato, e di un suo segmento anatomicamente poco nobile ci si avvantaggiava sull'ospite di riguardo. Non a caso in un'Italia dalle radicate tradizioni papaline lo si chiamava il boccone del prete. L'ho visto poi il pollo stramazzare di disgrazia in disgrazia fino al giorno d'oggi in cui e il brodo e il boccone del prete, né aspiranti suicidi né trigliceristi all'ultimo stadio, accetterebbero di assaggiarne. Un segnale forte e chiaro venne nel 1968, allorquando Giulio Questi diresse La morte ha fatto l'uovo. Narrava le vicende di un allevatore, interpretato da Jean-Louis Trintignant, di un allevatore che tramite le fantasiose manipolazioni genetiche dell'epoca servite all'ottimizzazione del prodotto era riuscito a produrre un pollo senza testa. Meno scarto, economicamente parlando, tanta carne in più pagata al prezzo di carne. Fra le tante cose di cui era il sintomo, una era quella di una specie umana che provvedeva ai propri bisogni allevando animali ai ritmi della fabbrica capitalistica. Sul mercato c'era ormai il pollo di serie e l'inquietudine derivata dal senso di colpa prefigurava il peggio. Lo prefigurava non esorcizzandolo, tuttavia sicuramente non impedendolo, perché oggi se l'estetica popolare non sembra ancora legittimare la pulsazione vitale di un pollo senza testa, siamo ormai pronti a convivere con il pollo senza piume. Dice infatti Avigdor Kahaner, biologo israeliano, che le penne costituiscono un penoso intralcio alla vita dei polli. Meglio nudi come mamma non li ha fatti affatto, si riproducono più velocemente, dice lui, e qui non vorremmo che antropomorfizzasse un po' troppo, resistono meglio al caldo, con gran diletto delle popolazioni africane, e lo sa Dio perché, sporcano meno, come se glabrità e stitichezza andassero obbligatoriamente in coppia. Le penne poi sarebbero fonte di quell'inquinamento di cui tanto amiamo lamentarci. Kahaner ha dunque inventato quel pollo nudo la cui immagine sui giornali e in rete circola in questi giorni. È rosso come un collezionista di eczemi e fa letteralmente schifo. Occupa presumibilmente l'ultimo gradino di quella interminabile scala di ignominie che è toccata alla sua specie e sembra fatto apposta per far la parte del leone in un bel dibattito di bioetica. È morto Stephen Jay Gould, il paleontologo che ha fornito un contributo prezioso alla comprensione dell'evoluzionismo darwiniano. Sarà ricordato per la sua teoria degli equilibri punteggiati, una teoria che come motori del cambiamento, oltre ai meccanismi della mutazione causale e della selezione naturale, invita a prendere in considerazione eventi rilevanti per la vita di un pianeta, come per esempio eruzioni vulcaniche, terremoti, collisioni meteoritiche e altre amenità catastrofiche. Nuove specie o grandi cambiamenti nelle vecchie possono sorgere in queste occasioni che rappresenterebbero per l'appunto la punteggiatura in questione. Perché no? Come, come racconta in un suo bel libro, in gran parte dedicato allo smantellamento del concetto di progresso, un libro che si intitola Gli alberi non crescono fino in cielo, a Gauld nel 1982 fu diagnosticato un mesotelioma addominale, un tumore raro e al tempo sicuramente letale. Accettò l'idea di fare da cavia per nuove terapie e diciamo che si è guadagnato qualcosa come 20 anni. In questo tempo ha scritto anche un libro che non ho apprezzato affatto, I pilastri del tempo, dove sostiene la tesi che al magistero della scienza spetterebbe l'empirico, mentre al magistero della religione spetterebbero i significati ultimi e i valori morali, dimenticandosi che sia i primi che i secondi saranno pur sempre il prodotto di una mente umana che è allora in quanto tale ad essere annoverata fra gli oggetti della scienza. Me ne dispiace per lui e per tutti coloro che l'hanno letto o per tutti coloro che lo leggeranno, ma non si può pretendere per i libri quello che dalla selezione naturale e dalla casualità non pretendiamo per i viventi. Non basta scrivere una sciocchezza per lasciarci le penne e, come dimostra il neopollo israeliano, a volte ci si lascia le penne anche senza saper scrivere. Così come l'equilibrio è stato un tempo punteggiato dalla perdita del pelo da parte dell'uomo o dall'estinzione dei dinosauri, oggi l'equilibrio è punteggiato da tutta una serie di novità di cui il pollo senza penne è semplicemente l'esempio più recente. A dirigere la faccenda solo molto indirettamente possono essere chiamati la selezione naturale o il meccanismo della mutazione casuale. Storia insegna che chi ha tentato l'opposizione a eventi consimili non sempre lo ha fatto disinteressatamente o nel pieno controllo del quadro ideologico in cui agiva. Dagli ultimi anni del Settecento a tutto l'Ottocento, gente come Kant, Wallace, Spencer o Shaw, per esempio, si lanciò in crociate contro la vaccinazione antivaiolosa di Jenner. La consideravano pericolosissima, foriera di innominabili conseguenze, violenza dello Stato sul cittadino, eccetera, ma per lo più inconfessata, dietro l'opposizione stava la fiducia in una perfetta armonia che avrebbe regolato mondo ed evoluzione delle forme della vita che questo mondo abitavano. Dietro questo florilegio di artefatti, tuttavia, che ne dicano i moderatissimi e timorosissimi pontificanti, è evidente dietro questi artefatti la mano rapace di quel capitale che rimane l'unica forza capace di punteggiare quel che i biologi individuano come equilibri. La nuova specie odierna nasce al mondo magari con qualche organo in meno e qualche altro ancora da revisionare, ma in compenso nasce al mondo provvista di un apparato retorico di primo ordine, come se ormai l'idoneità alla vita fosse ratificata dalla pubblicità. Due punteggiature ulteriori che vengono a ritoccare gli equilibri. Primo, il caso del pollo Gino, pollo virtuale, pennuto ma cantante. Se ne parla antropomorfizzando nelle gesta. Il pollo virtuale di MyTV, che ha sbancato la rete con il brano Tu lo fa o talebano, oppure ha deciso di darsi alla musica, ha inciso un album tutto suo, propone brani suoi. Secondo, il caso del maiale centenario. Santa Vendrace in provincia di Cagliari. Una giovane assistente geriatrica denuncia per esibizionismo e per proposte oscene il centenario che le era stato affidato. Nell'ideologia gastronomica in senso lato, e allora le parti si compensano. Virtualizzato scivola il pollo verso il baratro dell'estinzione fisica, ma la specie umana ascende vie più all'immaginario dei poteri.